15. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop Estate. Conduce in studio Franco Paoletti, regia del Bolognese Volante. Regia, posso entrare? Sì, allora, che spumeggiante sigla quest'oggi, regia. 5-6 anni che è così, comunque, no, va bene, spumeggiante oggi, bene, buongiorno, no, buona domenica, buona ben domenica. Svegliato Paoletti. Buona domenica a lei, ma mi prende in giro lei? No, scherzo, no. Assolutamente no. Va bene. Come non avesse mai sentito la sigla estiva. No, va bene, infatti volevo sottolineare che finalmente è arrivata la sigla estiva. L'hai invocata tanto domenica scorsa. Oh, qualcosa è cambiato, vede, fuori c'è il sole, l'estate sta arrivando e che dire, insomma. E anche la sigla estiva è arrivata. È arrivata anche la sigla, mi compiaccio con lei. Bene. Allora, vede che gli appelli servono. E allora, buon pomeriggio a voi, amici ascoltatori, ovunque voi siate, virtuali, quindi lontano da Bologna, e anche voi vicini che ci ascoltate via etere, quindi sui 103.100 modulazione di frequenza. E allora, ben arrivati in questa ennesima puntata di Easy Pop, il nostro salotto musicale. Andiamo a scoprire un po' di musica. Oggi è la puntata numero 22 di domenica 4 giugno 2023. 100% di musica indipendente per menti libere, il nostro sottotitolo, diciamo così. E quindi, visto che ci stiamo avvicinando all'estate, vedo molte uscite discografiche interessanti, quindi direi di dire stop alle così ciance, come si suol dire, e direi di così aprire il primo brano musicale, aprire il nostro programma col primo brano musicale prescelto. Fase con Nena, e poi vi parlo di lui, di questo cantautore torinese. Schifo, oh, oh, oh, tutte le sante ci fa schifo, oh, oh, oh. Ebbene sì, dopo le pubblicazioni dei precedenti singoli come Per come sei tu e poi Giuda, questo cantautore che si fa chiamare Fase si chiama al secolo Valerio Urti, torinese già conosciuto dagli addetti ai lavori in passato come frontman del progetto Fase 39, che appunto si è disciolto come gruppo in realtà, però lui ha continuato soprattutto dopo i mesi del lockdown. Ha detto sai che c'è, vado avanti da solo, effettivamente è così, perché ha dato già alle stampe due singoli di un certo spessore e questo invece è il nuovo singolo per l'estate che sta arrivando ed è alle porte. Direi invece di dare un fiato alle trombe, un bel tornato a un cantautore che è sottovalutato per quanto riguarda la musica italiana ed è un vero peccato perché ha scritto delle canzoni bellissime. Mi riferisco a Marcello Pieri che ci presenta il suo nuovo singolo, il singolo del ritorno alla musica e soprattutto all'estate, con questo nuovo singolo che si intitola Di tutti i giorni che ho passato con te. Marcello Pieri. Tutti i giorni che ho passato con te, mi ricordo solo quelli più belli. Inevitabilmente dentro di me alzo uno scudo per te. Sarà perché tu m'hai portato più in là, sarà perché m'hai dato una bambina. Vai giù di testa per le difficoltà di una vita diversa da prima. Volevo dirti che nella mia anima c'è un lumicino sempre acceso per te. Nella mia anima c'è un altarino dedicato a te. Ci sarà sempre, per sempre. Ci sarà sempre, per sempre. Che non passo con te, ce ne sono alcuni di molto belli, ma mi è rimasta la curiosità di sapere a te come ti va, come sarebbe stare oggi e te, vedere come siamo cambiati, se doveva proprio andare così, o se i tempi erano sbagliati. Volevo dirti che nella mia anima c'è un lumicino sempre acceso per te. Nella mia anima c'è un altarino dedicato a te. Ci sarà sempre, per sempre. Ci sarà sempre, per sempre. Marcello Pieri, di tutti i giorni che ho passato. Ebbene sì, Marcello Pieri, nato nel 65 a Cesena da una famiglia di agricoltori, lui appunto dice di essere un cantautore contadino. Quattro album inediti, uno fra i quali appunto contiene la hit Se fai l'amore come cammini, e poi ricorda anche le sue hit, quella del 93 quando ha partecipato al Festival di Sanremo con Femmina, e poi è autore di tanti brani musicali tra cui quello di Giannannini o di Karima. Insomma, poi ha partecipato alla tournée italiana insieme a Bob Dylan, insomma ha un carnet davvero interessante, appunto di successo, e poi alti e bassi come sempre, come tanti cantautori. Un vero dispiacere non appunto focalizzare appunto l'arte di Marcello Pieri, perché è un grande cantautore, un grande artista, un grande poeta a nostro avviso. Bene, detto ciò, visto che è uscito il suo singolo, l'abbiamo voluto ascoltare volentieri qui Marcello Pieri con il suo nuovo singolo Di tutti i giorni che ho passato con te. Direi di voltare pagina, a questo punto passiamo agli Origami di Maladie Desif. Ho detto giusto, regia? È scritto così, Maladie Desif. Facciamo partire? Piatto Origami, due. Piatto 2, avanti. Un origami, cosa dissi e perché fossi stata presente, io certamente avrei scelto che cosa sarebbe stato meglio allora per noi. Tu sfogliavi le carte, non parlavi e io ti seguivo con gli occhi senza essere lì. Iniziavi a piegare e formare quella vita senza di noi. Un origami in forma di mare, tra le tue mani una piega mentale. Il tuo profilo in quel gesto compiuto è il ricordo che ho di te. Un origami in senza mentale, storia finita di leggi e di assale. Trovarsi in mano una carta e provare a piegare come sai te. Sono uscita dall'auto senza crederci, per vederti tornare senza accorgermi che passavi da un lato e fermarmi. Ciao, ma cosa ci fai qua? Per un attimo penso forse è meglio di no. Un attimo aspetta, ma poi io lo so che non è il caso. Ma guarda, ho fatto questo per te. Un origami. Questo viaggio indescrivibile, senso di felicità collegati a un intento che ci scoprirà. Sentire, poi agire, vedere per dare un senso a questo viaggio. Un origami. Malady de Ziff, origami a Easy Pop. Esattamente. Numero 22, ormai siamo a metà dell'anno, Paoletti? Esattamente così. Allora, vado a parlare invece di Malady de Ziff con Origami, è il nuovo singolo per Lori Malady, ovvero sia è una bambina, appunto, una volta che era assai portata alla musica, ascoltava e si ispirava al folk, al pop, al jazz, e poi è finita, insomma, un po' così nelle sapienti mani di Raffaella Misiti, poi Giulietta Zanardi, Lucy Campetti e Rossana Casale. Ecco, tutte sono state tutte maestre di questa artista. Allora, cosa è successo? Che questa artista si è così avvicinata alla musica soprattutto in periodo pandemia. Cos'è successo? Che lei già cantava, ma collaborazione con un gruppo, ovvero sia Eugenio Cerocchi e poi un altro gruppo, insomma, che si è disciolto, se non sbaglio Malady, appunto, si sono avvicinati insieme e hanno deciso, appunto, di formare un nuovo complesso, appunto, Malady de Ziff. Questo è il nome, insomma, del gruppo che praticamente sta portando avanti questo progetto. Devo dire che questa Origami è molto estiva, molto scanzonata, vero? Molto, molto divertente, carina, molto carina, molto easy pop, sì. Molto easy pop. Abbiamo deciso comunque di suonarla. Detto ciò, regia, cosa abbiamo ancora? Albe con Così come sei. E andiamo ad ascoltare anche questo pezzo. Il sole picchia in macchina, ti trucchi ora e smettila. Sai che sei già bellissima così come sei, così come sei, oh. Sei bella al naturale, senza un filo di trucco, che se ti prendi male dopo non ti cola tutto. Rivogli i vecchi Nokia che durano un decennio, così posso chiamarti senza avere il 2%. La vie, mon ami, voglio sentirmi libero sotto un cielo limpido. Segui la scia che ti indico. Tu fai la fatica ma sei timida, abbronzatissima alla Vianello. Vai dimenticare l'inverno, tu strabello. E giuro lo so, in testa un casino, e vorrei peace and love, niente guerre con te. Il sole picchia in macchina, ti trucchi ora e smettila. Sai che che sei già bellissima così come sei, così come sei, oh. Così come sei, così come sei. Tu brava un po' educata, io uno scappato di casa. Cosa te ne frega se ci becca? C'era chi? Meglio che non te lo ricordo, se non finisce che ti manca. Poi ci ripensi e ci ricaschi e tu passi come la metro. E se l'amore è cieco, non so bene perché io non vedo che te. Lo giuro, lo so, in te sto un casino e vorrei peace and love, niente guerre con te. Il sole picchia in macchina, ti trucchi ora e smettila. Sai che sei già bellissimo così come sei, così come sei, oh. Così come sei, così come sei. Ti guardi allo specchio cercando difetti che non hai, ma sia fuori. Ma così come sei, il sole picchia in macchina. Altro brano molto estivo, Albe, così come sei, a un certo punto cita uno scappato di casa, che è un'espressione molto tipica anche qui a Bologna, dire un scapetca. Sì, io ignoravo effettivamente insomma, questo, uno questo che detto, non c'è tutta però, con la testa. Certo, certo, quello lo si capiva, lo si evinceva. Questo, questo cantautore, fantasioso cantautore, è un musicista di classe 1999, nato ad Alfianello in provincia di Brescia. Fin da piccolo ha un debole per la musica. Entra, pensate un po', nella scuola di Amici nel 2020, se non sbaglio. Ha presentato stato presentato insomma nella puntata inedita Mille Voci e da lì insomma ha preso un po' il volo, ha spiccato il volo, e poi ha collaborato anche con LDA, che lei saprà benissimo di chi sto parlando. LDA, il figlio di Gigi D'Alessio, ecco, quello lo conosco, ecco, quello so chi è. E poi ha scritto, ha cominciato a scrivere per altri cantautori e piano piano insomma anche per lui insomma si aprono le porte del cantautorato e insomma dei livelli quelli un po' in alto, vero? Quindi un in bocca al lupo anche per lui, che è giovanissimo, e che dire, che noi siamo pronti per la prossima, e visto che si parla in inglese, chi meglio di lei, vero? Lei fa sempre il simpatico, Anna Yadagu con Lose. Am I gonna lose myself in mine? If you could speak it true, would it be what I want to hear when we're alone on our way home from the party? Moving on with you, what more could I do? It's best if this is something new. So Ma che brava e che voce per questa Anna Yadau con Lose, il singolo, e l'album di debutto si intitola Aperture. È stato presentato a Brooklyn lo scorso sabato 20 maggio al Baby's Right. Devo dire che appunto è stato stampato in tiratura limitata all'LP, ma poi c'è ovviamente anche in cassetta, e poi insomma ci sono tutti i social eccetera che la stanno così coccolando. Paesaggi sonori sperimentali, aria psichedelica, e poi il primo album per lei, che è una straordinaria sorpresa, questa voce che mantiene sempre una sorta di pacatezza, di intimità, quando invece potrebbe esplodere dietro un riff di chitarra. Così praticamente ha descritto la voce rockerilla nella recensione di maggio scorso di questo album, che dà una grande emozione. Bene, che dire, che abbiamo assaporato anche queste note e abbiamo visto anche cosa succede nell'indie oltre manica. Complimenti a lei, che si presenta come una nuova Trinità Tikaram per esempio, e ci è piaciuta molto insomma, e abbiamo deciso così di suonarla anche noi, anche perché diamo sempre uno sguardo anche a cosa succede al di là appunto dell'oceano. E presto sarà anche in Italia, quindi io ve lo dico, lei ha già aperto tantissimi festival e si è così aperto i concerti di tanti altri cantautori insomma di un certo rilievo. Complimenti quindi anche per lei. Adesso direi invece di andare avanti e ritornare in Italia, vero regia? Certo, piatto numero uno, annunci lei. Abbiamo Febbre, Ossa Morsi, questo è il brano. Ti spaccherò tutte le ossa morsi, se non mi riconosci piangerò sulla tua schiena un brivido. Strappami la pelle con gli occhi, ingoiati una pillola di tutti i tuoi discorsi, non restare a galla se tocchi. Ho perso troppe notti, sfatto a letto fra i discorsi. Passi sotto il posto che chiamavi casa senza voglia di vedere cosa ne è rimasto. Costo di sembrare pazza senza farlo apposta. Come fai che se vuoi ti spaccherò tutte le ossa morsi, se non mi riconosci piangerò sulla tua schiena un brivido. Di tutti i tuoi ricordi Milano e noi balordi, due mandari in una piena, che se mi guardi solo guai. Pentirai solo il male che non vuoi, quello che non farò mai. Scelte giuste come schiantarsi senza un perché. Mi sembra strano come passi sotto il posto che chiamavi casa senza voglia di vedere cosa ne è rimasto. Costo di sembrare pazza senza farlo apposta. Come fai che se vuoi ti spaccherò tutte le ossa morsi, se non mi riconosci piangerò sulla tua schiena un brivido. Di tutti i tuoi ricordi Milano e noi balordi, due mandari in una piena. Molto molto interessante per questo Ossa Morsi, nuovo singolo di Febbre, progetto solista di Christian Pinieri, cantante frontman dei Lamette. Tra l'altro il contratto suo è davvero interessante, perché è distribuito da Universal Music Italia, e quindi insomma vuol dire che insomma c'è un certo interessamento. Tra l'altro con i Lamette, quando appunto cantava con i Lamette, ha totalizzato, pensate, oltre 500.000 streaming su Spotify, che è appunto gli inseriti di diritto più volte nella sua playlist, che si chiama X Factor, appunto la playlist ufficiale di X Factor, e poi tanti altri, insomma tante altre compilation. Devo dire c'è molto interesse per questo progetto musicale, sia anche per i Lamette, quindi chissà che cosa succederà di qui in avanti. Noi l'abbiamo suonato questo questo Febbre, perché ci è sembrato molto carina questa Febbre, questo brano molto interessante, che vede praticamente la descrizione di due ragazzi come due strambi che vagano e che insomma si sentono un po' strani nella società. Paoletti, 15:25 è già finita la prima parte. Ma come? Ma come è già finita? Ultimo brano. Sì. Allora piatto abbiamo numero 2. Ah, anche qui dovrebbe aiutarmi lei, perché qui c'è l'inglese. Silky Steps, I Like It, I Love It. Ci ascoltiamo. I Like It, I Love It, ma c'è anche un po' di francese, ho sentito. Già, glielo volevo dire. Tu parli a français un petit peu, Just un petit peu, just un petit peu, mais il y avait un petit peu de français. Merci, Tartufon, non so. Non dica sciocchezze, Paoletti, che siamo in diretta, si contenga. Io non conosco il francese, comunque, I Like It, I Love It, ultimo singolo estratto dal loro nuovo album per i Silky Steps. Sono praticamente sono un gruppo molto interessante che strizza l'occhio al neo sound, al new disco e sexy e losco, insomma, come il French Touch, proprio come i Silky Steps. Dovreste vedere la copertina, è un po' osè dire, però una musica sophisticated music, sì, direi, si molto lascia elegante, raffinata, suadente. Allora salutiamo qui coloro che amano praticamente questo genere, no? Questa, certo, sophisticated music, in particolare chi, regia? Abbiamo Simone, per esempio, che ci ha detto che è molto bella. Esatto, allora saluto anch'io, mi accodo, un saluto a lui se fosse sintetizzato un po' dura. Invece sintetizziamo l'annuncio e direi di andare con il break pubblicitario, vero, regia? Sono già le ore 15:29. E quindi vai con la pubblicità, voi rimanete inchiodati lì perché rientriamo fra brevissimo. Non andate via. Non andate via. Easy Pop. Nella Bologna mordi e fuggi c'è un luogo diverso, dove trovi socialità, cultura, presentazione di libri, controinformazione, impegno e attenzione ai temi sociali, musica, teatro, poesia, ma anche buona cucina. È il centro sociale e culturale Villa Paradiso, in via Emilia Levante 138, fianco Osteria Vini d'Italia. Aperto dal lunedì al sabato, dalle 17 alle 24. Per info cerca Centro Sociale e Culturale Villa Paradiso su Facebook. Ma certo, adesso facciamo la passeggiata. Hai ragione, è l'ora delle coccole. A Bologna ci siamo noi di Dogbo e conosciamo bene le esigenze dei tuoi amici a quattro zampe. Dog e cat sitter, educazione, passeggiate, accudimento, visite a domicilio, asilo, corsi e stage, anche quando tu vai in vacanza. Maggiori info al 327-395-8183 o dogbo.it. La fisioterapia è una cosa seria, necessita di attrezzature all'avanguardia e di professionisti con una grande passione per la vostra salute. Noi del Poliambulatorio Descovich lo sappiamo bene. Abbiamo un'esperienza di 60 anni e siamo stati i primi a Bologna ad occuparci di fisioterapia. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, traversa di via Lame, facilmente raggiungibili anche in autobus. 051 649 4501 o prenota comodamente online dal sito, saltando il centralino e a qualsiasi ora su www.descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich. Hai voglia di rock and roll? Allora vieni a Rockin' Summer Fest il 30 giugno e l'1 e 2 luglio allo Junior Club di Rastignano per un festival di 3 giorni di ballo, cultura e musica degli anni 50. Dalle 10 fino a tarda sera con workshop di ballo, live band, mercatino vintage, piscina a disposizione e tanto divertimento. Info e iscrizioni su rockinsummerfest.it. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop Estate. Conduce in studio Franco Paoletti, regia del Bolognese Volante. In my future, no way. The other guys know the game to play. Watching her, watching me, I'm getting burned. Eccoci qua, siamo rientrati in studio subito dopo il break pubblicitario. Chi vi parla è Franco Paoletti, al di là del vetro invece agli apparati elettronici c'è il nostro bolognese volante, sempre attento nelle correzioni e insomma nel struccare bouton, come sì. Diceva zia Mara. Ascolti, e no, poi... bouton, ci hanno chiesto l'ultimo brano, si chiamavano sì. Silky Steps. Non l'ho I detto. Like it, I love it, l'ha detto, ma è stato chiesto da un ascoltatore di ripeterlo. Sì. Silky Steps, I like it, I love it. Comunque ricordo che tutta la scaletta si trova sul sito della radio www.radiocittafugico.it, cartellina musica, playlist. Va benissimo, c'è un, diciamo che anche noi, no, pubblicheremo insomma la nostra playlist. Tutte le settimane lo facciamo. Esatto, e questo è un estratto da un album molto interessante che troverete sicuramente in rete, dove ci sono tutte queste sonorità molto molto particolari, molto suadenti. Invece torniamo alla musica, alla carica, con naturalmente la musica. Riprendiamo la seconda parte di Easy Pop di questa domenica 4 giugno 2023. Siamo in diretta, anzi, per i vostri WhatsApp 333 180 94 94 è semplicissimo entrare in contatto con la nostra redazione, vi risponderemo comunque. A proposito della sua fantomatica redazione sì. musicale, il brano c'è sta, che c'è sta. Avete scelto come primo della seconda parte sì. diciamo così sperimentale, quindi occhio. Perché orecchio, e adesso orecchio, gli ascoltatori e le ascoltatrici sentiranno e apprezzeranno la sperimentalità di questo brano, Paoletti, di cui lei ci parlerà. Certo, e siccome è distribuito dalla Ada Music Italy, è una etichetta molto interessante, alternativa, state con le orecchie aperte. And Logic, questo è Rifiuto, tutto può finire. Guarda tutto intorno, scava nel profondo. Rotti i margini del mondo, le persone crollano, forse non ne ho più bisogno, forse non lo voglio più. essere umani esseri, umani perfetti, il primo disco in italiano degli Hand Logic, che avevamo già suonato qualche anno fa, è in uscita insomma questo nuovo album per questa etichetta Pioggia Rossa Dischi, un concept album sulla crescita attraverso l'analisi, sul diventare adulti tornando però bambini, una ricerca musicale davvero interessante che praticamente è un ideale di perfezione, così insomma questo è l'idea che ci sta in fondo a questo concept album, dai suoni molto particolari da ascoltare e da così da lasciarci travolgere, ad assaporare brano dopo brano. Tra l'altro, come dicevo, insomma l'etichetta è molto interessante e soprattutto la distribuzione della Ada Music, che per quanto riguarda le nuove tendenze è sempre un passo avanti. Ecco, detto ciò, andiamo avanti con la VRG, è vero? Si chiama così il prossimo artista. Ah, sì. Africa ci presenta e noi ce l'ascoltiamo. Madre mia, ti trovo adesso in un angolo del mondo. Scusa se io troppo spesso ti ho nascosto quello che nascondo. Africa, senza il telefono. Africa, io voglio dirtelo. Africa, Africa, e tu sei dentro di me. Arriverò da te. Che non passa. Ai, ad Africa, sto bene così. È un'altra. La Virgi, Africa. Ed è così, proprio. Brano molto estivo, ovviamente, anche questo facendo. Esatto, l'abbiamo riferimento voluto all'Africa, invernale non può essere. Eh certo, l'abbiamo voluto apposta per quanto riguarda lei, questa cantautrice che si chiama Virginia, quindi la Virgi con Africa, e il nuovo singolo per la cantautrice catanese, appunto, Virginia Cristaldi, che appunto non è nuova alle uscite discografiche, anzi vi preannuncio che l'album uscirà nel 2023, fine 2023. Il disco la vedrà anche affiancata in collaborazione con Mario Biondi, che ne diventerà il suo produttore. Forse per chi guarda i reality l'avete già vista nel 2015, dove partecipò al programma di The Voice of Italy su Rai 2 nel team J-Ax, e poi via via insomma già fatto appunto da corista nel 2021 a Mario Biondi, per poi arrivare a incidere sempre in quello stesso anno insieme a Mario Biondi un EP dove lei appunto aveva due brani a disposizione. Detto ciò, insomma, se sono rose fioriranno, complimenti a lei. Ah, le rose mi mancavano. Diciamo una voce interessante, speriamo il percorso artistico altrettanto. A questo punto invece diamo spazio a un personaggio che abbiamo già conosciuto qui sulle nostre frequenze, comunque nell'Indie è già conosciuto. Stiamo parlando di Nartico, quello che ci presenta è Tutto Ritorna. Nartico. che è un grande attore. Luci di ribalta, luci d'atmosfera. Cibo spazzatura, chiedi il conto all'era. Siamo tutti uguali, prima o poi si avvera. Come un set è bello per fare primiera. Tutto ritorna, tutto viene e poi va. Un po' come il karma, come la pubblicità. Tutto ritorna, tutto viene e poi va. Come la moda, come la moda. Tutto ritorna, tutto viene e poi va. Chi ha troppo finisce, che ruba chi non ne ha. Tutto ritorna se non si imparerà. Come la storia, come la storia. Stelle, figli della tele, togli da giudizi quelle ragnatele. Di te non mi fido, però in buona fede. Bello il tuo pensiero, lo puoi anche tenere. Cambio di regista, cambio della scena. In TV c'è sangue ma non sono in vena. Ah, ah, chi si sente in gabbia fuori si scatena. E chi ha la testa vuota c'ha la bocca piena. Tutto ritorna, tutto viene e poi va. Un po' come il karma, come la pubblicità. Tutto ritorna, tutto viene e poi va. Come la moda, come la moda. Tutto ritorna, tutto viene e poi va. Chi ha troppo finisce, che ruba chi non ne ha. Tutto ritorna se non si imparerà. Come la storia, come la storia. Se davvero fosse vero, il cielo fosse tutto nero. È così, abbiamo ascoltato Nartico a soli 23 anni. Lui è un cantautore che ha debuttato in TV comparendo a Propaganda Live, a Teleton, a Porta a Porta e poi in diversi show di Rai 1, Rai 2, La 7, Italia 1. Esordisce praticamente con Il Mondo per 10 minuti e successivamente poi ha presentato anche Tempi Moderni. E il singolo è entrato in rotazione in diversi network e noi non potevamo non suonare questo nuovo singolo. Singolo che ci è piaciuto molto per le sonorità molto particolari, i testi ironici e diretti, che dire, insomma, che gli ingredienti ci sono tutti per avere grande successo. Complimenti a Nartico e bentornato alla musica. E a questo punto voltiamo pagina, abbiamo anche un altro cantautore che si fa chiamare Vitto e ci ascolta e ci fa ascoltare Antartide. Sola. Ancora dici le bugie, manca mezz'ora. Ai miei battiti, sui tuoi battiti, da rimane. Sì, scendi, ti posso prendere se dici un po' mi manchi. Coreografia di mani, movimenti lenti, sospiri bollenti, mi riempi. Sì, e cosa c'è che mi ha nascosto anche stasera? Vieni da me, ma perché qua non resti pure a cena? Dove vai? Saltando tra i pianeti, eppure lo sai, mi trovi ad aspettarti anche su Marte o nel freddo Antartide, ogni punto cardine. Parlami dei tuoi guai, metti alla perfezione con i miei sogni, lo sai, mi trovi ad aspettarti anche su Marte o nel freddo Antartide, ogni punto cardine. Oddio che freddo, balli col tuo maglione mio ancora addosso. Dentro non c'è più musica con la tua voce sotto. Cuore, me l'ha cotto, ho dato un mazzo, che dolore. Un po' mi piace se mi chiedi per favore. Tanto non dico no, sono già K.O. Mi batto un baccio. E cosa c'è? Mi perdo tra le curve anche stasera. Resta con me, con te. Non mi serve la luna piena. Corri, ma dove vai? Saltando tra i pianeti. Mi perdo tra le curve anche stasera. Resta con me, con te. Non mi serve la luna piena. Corri, ma dove vai? Saltando tra i pianeti, eppure lo sai, mi trovi ad aspettarti anche. Vitto Antartide. Come sempre nome maschile, però finisce con la O. In realtà lei è una cantautrice che ha già i suoi fans, è stata anche ospite dell'ormai celebre anteprima del programma Viva Rai 2 di Fiorello, e poi insomma ha già i suoi fans. La giovane cantautrice ha dimostrato di possedere un talento innato e una personalità magnetica on stage, e appunto vanta tantissimi click e soprattutto tantissimi fans reali, insomma. Complimenti a lei, come sempre anche per lei, no? Se sono rose fioriranno. Ma non può cambiare fiore? Margherita? Ma se sì, sono Margherita. Fioriranno anche le margherite. Poi le rose, o girasoli, fungo, non lo so. Va bene, girasoli, va bene. Ma no, girasoli adesso sono un po' fuori stagione. Non lo so, adesso, ma... dica lei. Non lo so, delle lei odia delle i fiori, lei no, bisogna essere green, lei lo sa. Rose, per piacere, basta. mi tolgono la trasmissione. Mi tolgono la trasmissione. Bisogna urli? Essere green. Non ho una trasmissione urlata adesso questa. Io non urlo, però rivendico il green. Sì. Tutto il green che c'è. Come green lei, guardi. Ecco, e a questo punto cosa da dire? Scusi, niente. Lei manco mi conosce. Insomma, mantenga le distanze per cortesia. Vabbè, siamo ecco. Di là in due studi separati. Ecco, più appunto, qui. Vede i fiorellini qua. Quali fiorellini? Lì c'è ecco. L'imbottitura per isolare la radio. No, sono i fiorellini quelli. Ma lei ha bevuto? Green. Bene, andiamo avanti. No, lei cioccolatini sono di là. Andiamo con la prossima. M.T. Jones con I'd Be Living. L'ho detto bene? No, ma è lo stesso. Va bene. Seems so easy, so easy. But it's back to going upside down when I lock my eyes with you. It's like we're running out of time, but we had more sex when it wasn't right. So why did we do that? God, tell me why we did that. We seem so hot and cold. Jones, I'd be lying. Not living on lying. Ho letto velocemente. Voce del verbo sono... to lie, giacere, sdraiarsi. Sì, in effetti mi ho letto velocemente, mi sono accorto della gaffa, però ormai è andata, buona la prima. Tranquillo, insomma. Le perdoniamo tutto. Perfetto, Paoletti. Empty Jones, questo brano trae ispirazione dei grandi del soul degli anni 60-70, e ve ne sarete accorti, no? I moderni R&B, jazz, insomma, questa voce evoca un suono un po' desueto, un po' dei tempi andati e senza tempo. Comunque i vocalist appunto che ha dato alla luce questo pezzo è un personaggio che vive a Liverpool, tra Liverpool e Londra, perché Jones ha viaggiato per il mondo come musicista, ha scritto tanti cantanti, tante canzoni per artisti, facendosi poi un nome come autore prolifico, e insomma grazie a lui insomma ci sono tanti successi inglesi, però lui è di origine italiana e quindi insomma da qui si sente anche un po', no, la pulizia del così della pronuncia. Complimenti quindi a Mr. Jones, a MT Jones, no, Mr. Jones era la citazione di un altro brano, e quindi attenzione perché per lui uscirà un album dal titolo Mentirei, ed è praticamente in uscita in questo periodo. Detto ciò, se vi piace il genere soul, sappiate che c'è questo album. Noi a questo punto voltiamo pagina e abbiamo sul piatto numero 2 regia. Sul piatto numero 1 di qua? Uno? Sì, vabbè, lo stesso 1, 2 per lei è indifferente. Vabbè, è una cosa che gestisco io. Piatto 1 abbiamo Shanni. Certo. Con Diversamente Giusti, Shanni. Vorrei sapere cosa pensi quando sei nel letto e dopo ti rivesti, quando ti lavi i denti, se penso ai miei difetti, lo so che sono tanti, ma so che ti diverti. Quanto mi piace quando fuggi dentro al letto, quando distruggi casa, non sai quanto io mi diverto, ed è così perfetto se tu mi leggi dentro e fai scoppiare tutto, se non ti dico a cosa penso e voglio restare fermo in silenzio per capire soltanto se tu realmente esisti. E quando mi abbracci salgo sempre dagli abissi. Perché quando mi abbracci. Vorrei sapere cosa pensi a quando pensi di mollare. Lo sai, ti ammazzerei se tu smettessi di sognare. Ma come faccio adesso? Se in mezzo a questa folla io vedo il tuo riflesso. Vorrei sapere tutto quello che ci aspetta, mi basterebbe solo vedere la tua faccia tosta quando il mondo intero diventa tutto nero per il tuo cuore grande. Non sai quanto ti devo e voglio restare fermo in silenzio per capire soltanto se tu realmente esisti. Perché quando mi abbracci salgo sempre dagli abissi e voglio fermare questo momento. Perché quando mi abbracci salgo sempre dagli abissi. Shanni, Diversamente Giusti. Molto bello e originale questo urban, suona un po' urban. Bel suono anche questo. Bel suono, vero? È coadiuvato dal DJ Molla, che non è nuovo, produzioni molto interessanti, soprattutto per giovanili, giusto? Per giovani, e devo dire, ha questo linguaggio sonoro molto interessante. Di lui, Shanni, che in arte appunto è Shanni, lui si chiama Alessandro Shanni Manico, è di origini baresi, sta a Roma. Lui dice così: vivo in una stanza nera piena di poster che parlano di sogni e speranza, e solo questa frase gli dà 100 punti. Diciamo che lui ha iniziato prestissimo a suonare prima la chitarra e poi si è dato al basso. Dopo alcune piccole esperienze nel mondo della musica, nel 2021 ha cominciato il suo nuovo percorso artistico da solista insieme a DJ Molla e in collaborazione con la Universal Music Italia. E nel 2023 l'abbiamo ascoltato all'inizio dell'anno con il singolo Mostri, e adesso insomma arriva questo singolo curioso, molto interessante, appunto, che abbiamo ora ascoltato, Diversamente Giusti. Detto ciò, regia, velocemente settimo ed ultimo brano di questa puntata numero 22 di domenica 4 giugno. Paoletti, lei ci ha fatto una sorpresa, io lo so già. No, me lo sento. No, c'è quello che è scritto lì. Che cosa? È un brano che ha scelto la sua realizzazione musicale. Ok, la realizzazione musicale, quindi non c'è la sorpresa di Steve Vintage, qualcosa del genere, non c'è niente. Sorpresa. Allora, lei non si è preso lo spazio, bene, allora me lo prendo io. Maydell, Ready Me, Mami. Mamma mia, allora, mi aiuti. Maydell, Ready Me, Mami, Gabriel Soltero. Tra di noi il remix è un brano rap. Ascoltiamolo. Passato, nulla è cambiato negli occhi tuoi. So che non c'è più nulla tra di noi. E sei con lui ma non è ciò che vuoi. Dimentichiamoci del passato, quello che è stato, bebe, tra di noi. Bebe, sì, t'ho sbagliato. So che sono un codardo perché mento ai miei sentimenti. Ora il cuore è spezzato. Per quanto lui spinga forte, non basterà una sola notte a dimenticare me. Quando ti manco riguardi le foto e mi mandi un messaggio alle tre. Vuoi che lo rifaccia con te? Anche se non ti vedo da un po', non ti vedo da un po'. E mi chiedo come stai, mi chiedo come sto. Vorrei ma non so se scriverti o no quando ti vedo online. Oh baby lo capirò, baby lo capirò. Se non mi risponderai. Ma tutto quello che io ho fatto per te lui non lo farà mai. So che non c'è più nulla tra di noi, ma dopo tutto ancora mi vuoi. E anche se di tempo ne è passato, nulla è cambiato negli occhi tuoi. So che non c'è più nulla tra di noi, e sei con lui ma non è ciò che vuoi. Chiamoci del passato, quello che è stato, beve tra di noi. Io non mi guardo indietro però continuo a pensare a te. Stammi vicino, sai cosa mi chiama? Il tuo sorriso è giusto appena per chi t'ha tradito. Tu non mi rispondi però pensa a me. Scrivi ma poi cancelli tutti i tuoi pensieri. Stavolta non basterà come a me. Torna da me, Bebe lo sai che stare lontani fa male. Siamo nati per soffrire, non per amare. Sentire dentro un freddo glaciale. Anche quando ti vedo adesso è normale. Il linguaggio moderno del rap espresso da questo brano, Paoletti. Sì, dove si mescola la musica urban, la cultura latina, il reggaeton. E poi di questo brano mi sembra ci sia anche la versione appunto spagnola, perché Maydell è un artista italo-sudamericano nato nel 98 a Milano. E dentro ci sono appunto le collaborazioni di Gabriel Soltero e di Redmi Mami. Detto ciò, regia, io credo di aver così esposto il meglio della musica in uscita questa settimana, musica indie. Cosa c'è, regia, adesso? La presigla che indica che il tempo è scaduto, Paoletti. E allora game over. Allora, game over, quindi io comincio a congedarmi da voi, vi ringrazio. Cominci per l'ascolto prestato e ci diamo l'appuntamento fra 7 giorni. Esatto, allora ringraziamo tutti e tutte coloro che ci hanno ascoltato, in particolare Simone e Marzia, ma tutti indistintamente. Ricky, certo. Speriamo Ricky, di aver Fedora, fatto ciao, grazie. Una bella oretta. Vi lasciamo alla programmazione di Radio Città Fucico, che prevede tra una mezz'oretta le corrispondenze di Dani Coraucci e subito dopo Amalia Picella. C'è l'Appi. Paoletti si contenga. Amalia Picella con la sua C'era una volta il West, programma di aggiornamento cinematografico. Esattamente, quindi buon lavoro anche agli altri della nostra emittente. Vi diamo l'appuntamento fra 7 giorni, sempre qui, stesse frequenze. Non lasciate 103.100 in modulazione di frequenza. E poi ci sono tutte le nostre pagine social. Seguiteci sul sito www.radiostafugico.it, cartellina musica, playlist. Bye bye da Franco Paoletti. E da Bolognese Volante. Buona settimana. Buona settimana.